Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio e benvenuti, Luca Tremolada al microfono. Oggi parliamo, cerchiamo di capire, cerchiamo di trovare tutte le motivazioni che ci porteranno, forse sì o forse no, i cloni, animali clonati nel nostro piatto. Vero Guido? Ma sì, ma in fondo forse si può mangiare una bistecca clonata. In America succede già. Voi la mangereste? 824 0024, l'appello lanciato, la domanda lanciata agli ascoltatori sugli animali clonati come tecnologia, tra l'altro, perché può diventare una tecnologia alimentare, per quanto... Una tecnologia terapeutica da tempo, una tecnologia alimentare sta già diventando, insomma. Ne parliamo con Cesare Galli, papà del toro Galileo. Buongiorno. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Ascoltiamo subito la sua storia nella scheda di Guido Romeo. Il primo è nato 10 anni fa e si chiamava Galileo. Era il primo toro al mondo clonato da un campione, Zoldo. Il vero papà del toro Galileo, però, è Cesare Galli, un ricercatore dagli occhi azzurri e un po' sognanti, figlio di una famiglia di allevatori. A Cambridge, in Inghilterra, ha lavorato per anni nello stesso istituto di Ian Wilmut, il papà della pecora Dolly, nata nel 1997. Ma diversamente dal collega britannico, acclamato come una rockstar per il suo exploit, al veterinario italiano la nascita di Galileo è valsa un arresto e una notte in carcere per violazione del decreto Bindi sulla clonazione. Dopo Galileo, dal suo laboratorio al CIZ, il Consorzio per l'Incremento Zootecnico di Cremona, sono nati 3 cloni del famoso toro frisone Mtoto e successivamente copie di altre razze e specie, fra cui anche il primo cavallo clonato al mondo, Prometea, nel 2003. L'anno scorso il CIZ ha chiuso i battenti e macellato gran parte dei cloni rimasti, ma Galli non ha smesso di lavorare. Per necessità, da ricercatore è diventato imprenditore e insieme alla moglie Giovanna Lazzari ha fondato Avantea, una società privata per la riproduzione animale, che ha ripreso tutti i 9 dipendenti del consorzio. Oggi il 30% del suo fatturato viene dal mercato e il 70% dalla ricerca, ma le prospettive di sviluppo sono molto promettenti, soprattutto per i cavalli. Quindi, Galli, mi faccia capire, le è costata una notte di cella il toro Galileo? Sì, diciamo che è stato preso dal questo lavoro dal panico degli amministratori, del ministro, dei suoi addetti, per cui hanno mandato i carabinieri a arrestare me, il toro. E il toro, che fine? Anche il toro in prigione, quindi? Sì. Anche il toro, mamma mia, è finito in un allevamento di cavalli, peraltro. Beh, però adesso è cambiata, no, Galli? Il decreto Bindi non è stato rinnovato, quindi quello che fa è tranquillamente legale, non ha più di questi incidenti. Certo, da subito, da quando poi è succeduto un altro governo, quel decreto, almeno per quanto riguarda la parte animale, non fu più rinnovato, anche perché era assurdo. Per cui diciamo che è assolutamente possibile fare questo tipo di ricerche rispettando quelle che sono le norme che riguardano la sperimentazione animale, quindi evitando le sofferenze, trattando gli animali in un certo modo, ecco, quindi un certo benessere. Mi faccia capire, cioè in Italia è legale clonare gli animali? Certo, sì, come da più o meno in quasi tutti i paesi del mondo, forse ad eccezione dell'Olanda e della Norvegia, dove ancora c'è anche un divieto sugli animali, ma la maggior parte del mondo non è assolutamente vietato, ma... anche perché per chi lo conosce o chi ha voglia di capire effettivamente come funziona, capisce che tutto sommato non è molto diverso da altre tecniche di riproduzione assistita che vengono utilizzate nell'allevamento degli animali e anche per certi versi nella riproduzione assistita umana, per cui... è più un effetto emotivo che non una valutazione obiettiva su quelle che possono essere le tecniche e le operazioni che vengono fatte. Ecco, ma è uguale la bistecca di stavo dicendo di toro clonato, ma no, di mucca clonata e invece il toro non clonato, cioè è sostanzialmente uguale o... Ma adesso... parlare di bistecca clonata è un po' azzardato, nel senso che produrre degli animali clonati oggi come la tecnologia ancora in divenire, in sviluppo, è abbastanza costoso, per cui mai più gli animali clonati verranno prodotti per essere mangiati, almeno non nel prossimo futuro. Semmai quello che invece è già una realtà anche negli Stati Uniti è la progenie, cioè i figli di questi animali clonati, dove è già stato dimostrato che non hanno più quelle eventuali problematiche legate al fenotipo dell'animale clonato, quindi il figlio del clone è assolutamente normale, come peraltro abbiamo dimostrato noi riproducendosi i bovini, che anche promette alla cavalla, la prima cavalla clonata. Detto questo, di fatto gli studi che sono stati fatti tra carne di animale clonato e carne di animale riprodotto normalmente, anche il latte, non sono riusciti a dimostrare nessuna differenza misurabile scientificamente o tecnicamente. Ecco, professore, diciamolo subito, perché è bene chiarire che in Italia gli animali clonati e i loro prodotti non possono entrare nella catena alimentare, non possono entrare nel consumo umano. In tutta Europa è così. E non c'è neanche una richiesta da parte delle aziende di avere questi prodotti, appunto, di avere, diciamo, degli animali per la produzione destinata all'uomo. In America invece c'è stata una parere positivo, quindi sono in commercio i prodotti dei figli dei cloni, insomma. Esattamente, sì. Ma infatti un ascoltatore si domandava: ma non costa meno farli alla vecchia maniera, cioè farli nel senso si riproducono in serenità? Beh sì, quanto costa, adesso non mi aspetto una cifra, ma cioè quanto costa clonare un animale? Dipende da che animale stiamo parlando. Se parliamo di bovini, il costo medio potrebbe aggirarsi tra i 20 e i 30 mila euro per produrre un animale clonato. Se parliamo di equini, andiamo verso i 100.000, 120 mila euro. Se invece parliamo di maiali, sono costi più ridotti, parliamo forse intorno ai 5 mila euro. Sì, un prezzi da gioielleria. Ma se invece, diciamo, non lo cloniamo, ma facciamo la fertilizzazione in vitro, perché poi tutti gli animali di allevamento ormai nascono quasi tutti per inseminazione artificiale, non c'è più, diciamo, il metodo tra virgolette naturale, cioè non si accoppiano più il maschio e le giumento, le vacche o le scrofe, quello che sono, insomma. Certo. Quanto costerebbe invece, appunto, solo con la fertilizzazione in vitro, con l'inseminazione? Perché poi la fertilizzazione in vitro è già una tecnica più costosa, perché implica una tecnica di laboratorio, che peraltro viene usata in una nicchia per particolari animali, ma se noi parliamo di produzione a livello di azienda con inseminazione artificiale, una dose di seme potrebbe costare tra i 20 e i 50 euro se seme di importazione di particolare valore. Quindi il costo del vitello nato è sicuramente irrisorio rispetto a quello che costa produrlo con la tecnica della clonazione. Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Carlo Alberto Redi, direttore scientifico del Politecnico San Matteo, Policlinico San Matteo, e professore all'Università di Pavia, nonché papà della Topolina Cumulina. Buongiorno, professore. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Sentiamo la sua storia. Ha vissuto per tanti anni in collegio, al Ghislieri di Pavia, ma ha anche girato per il mondo. Per Carlo Alberto Redi, oggi direttore scientifico del Policlinico San Matteo, professore all'Università di Pavia e accademico dei Lincei, DNA e biologia non sono solo materia di studio, ma anche di riflessione. Nel 1997, insieme al team IANA di Ryuzo Yanagimachi dell'Università della Hawaii, Redi clona il topolino Cumulina. Una nascita, confessa, che l'ha fatto commuovere quasi come quella di una persona, ma che gli ha anche fruttato la visita di una pattuglia di carabinieri. Dal 2000 al 2002 fa parte della Commissione Dulbecco per lo studio degli usi terapeutici delle cellule staminali ed è tra i fondatori del Centro per le Scienze della Vita e il Diritto. Per Redi, il XXI secolo è da tempo quello della biologia. L'ampio sviluppo delle scienze della vita e in particolare la riproduzione artificiale sono uno dei punti centrali della trasformazione delle società occidentali. E più che demonizzarlo, dobbiamo soprattutto comprenderlo e saperne cogliere i limiti e i benefici. Ecco, professor Redi, una curiosità. Perché Cumulina? Cioè, perché ha chiamato la topolina... Il nome è molto semplice, perché il nucleo della cellula da cui abbiamo ottenuto il nuovo individuo era il nucleo di una cellula del cumulo ooforo, cioè una di quelle piccolissime celluline che accompagnano l'oocita al momento dell'ovulazione. Ah, perfetto. No, io mi immaginavo tutta una storia strana. C'è un ascoltatore, Nico, che si domanda quali vantaggi si possono trarre dalla clonazione e dalla seguente progenie. Posso rispondervi? Certo. Ah, perbacco. Beh, la domanda è estremamente puntuale. E i vantaggi della clonazione sono basati su due grandi filoni. Da un lato abbiamo la conoscenza, diciamo di base, l'avanzamento delle conoscenze legate a capire come il DNA, il genoma, il materiale ereditario che troviamo in una cellula differenziata, una cellula della pelle, di qualunque parte del nostro corpo, consideriamo l'uomo, stiamo parlando di 1 miliardo di cellule, tutte derivano da una, dallo zigote, il DNA si moltiplica, salvo errori è sempre quello, però le singole cellule fanno un lavoro molto diverso, la pelle, l'osso, il sistema nervoso, ecco, clonare significa riuscire a capire come il programma genetico della cellula che svolge la funzione di cellula della pelle o del sistema nervoso o di una parte delle cellule del sistema riproduttivo, come nel caso nostro, è in grado di tornare indietro nel tempo, cioè è in grado di essere riprogrammata geneticamente, perché quando si clona un animale, quel nucleo della cellula somatica che stava svolgendo il lavoro di pelle, immesso nella cellula uovo, privata del nucleo, se la clonazione riesce, significa che è stato in grado di spegnere il programma genetico che gli diceva fai la cellula della pelle e di ripartire, di ripassare tutte le fasi embrionali, fetali, dello sviluppo e quindi di arrivare alla formazione di un nuovo individuo. Ora, conoscere nel dettaglio la dissezione molecolare di questi eventi, beh, penso che anche all'ascoltatore riuscirà intuitivo il capire che significa entrare appieno nella comprensione dei fenomeni, ecco, che regolano. Professore, due domande al volo, perché stanno arrivando moltissimi SMS. Qualcuno parla di eugenetica, non c'entra nulla con la clonazione, mi sbaglio? C'entra come i cavoli a merenda, se devo essere. Può spiegare, ma in maniera fulminea, di che cosa stiamo parlando? Se parliamo di eugenetica? Sì. Se parliamo di eugenetica stiamo parlando di programmi di selezione di nuovi individui basati sul permettere la riproduzione solo di alcuni tipi. Ad esempio la Germania nazista permetteva solo la riproduzione degli ariani, ad esempio negli Stati Uniti o nella Svezia i dementi e chi veniva considerato poco intelligente non veniva permesso loro di riprodursi. Diciamo che sui bovini questo è un termine impiegato molto malamente, purtroppo. Ecco, sui bovini questo discorso non si può fare. Dimmi, Guido. Ma io ho un'altra domanda invece terra a terra, si potrebbe dire. Ma i cloni sono tecnicamente degli OGM o sono semplicemente un nuovo individuo con lo stesso patrimonio genetico, quindi identico a quello precedente? Non vi è dubbio che non hanno nulla a che vedere con gli OGM e sono esattamente la riproduzione, come accade in natura, laddove si ha la riproduzione asessuata o laddove si ha, come nell'armadillo, la nascita di 4 individui identici, quelli sono 4 cloni tra di loro. OGM si riferisce al fatto che io inserisco in un genoma una componente genetica di un altro organismo, quindi non ha nulla a che vedere con gli ascoltatori si domandano che senso ha clonare un toro riproduttore quando sostanzialmente non ha, cioè se è riproduttore non ha problemi di riproduzione. Galli. Dunque, in realtà ci sono delle motivazioni valide. Nei bovini, come in tutti gli animali, anche nelle persone, ci sono gli incidenti, ci sono le morti, quindi un animale potenzialmente valido geneticamente, quindi si calcola che sia il 10% degli animali muore, quindi non riesce a essere sfruttato dal punto di vista genetico. Quindi in questo senso la clonazione è un po' come un'assicurazione sulla vita. Nel caso dei cavalli, buona parte dei campioni sono dei castroni cosiddetti in gergo, cioè sono animali castrati in giovane età, cioè gli tolgono i testicoli. Quindi a questi animali è preclusa la riproduzione, quindi se noi abbiamo un campione questo non avrà figli perché è castrato. Facendone una coppia, quindi clonando questo animale, la coppia che viene creata non viene castrata e viene destinata alla riproduzione. In questo modo si recupera il patrimonio genetico di quell'animale. Quindi la clonazione è un'applicazione di nicchia, non sarà mai ecco, mettiamolo, diciamolo, perché non stiamo parlando di fabbriche di cloni, non è neanche immaginabile un'idea di costruire una sorta di porcilaia dove si producono centinaia di maiali. Assolutamente sì, se è un discorso e rimarrà un discorso di nicchia, limitato ad alcuni, forse l'un per mille della popolazione di animali allevati, dove è giustificato il ricorrere alla clonazione, ma non diventerà mai una tecnica che soppianterà le altre tecniche di riproduzione. Ecco, Galli, mi scusi, ma è un discorso di nicchia, ma che è economicamente interessante, cioè qualcosa che comincia a valere parecchio. Abbiamo sentito i prezzi di clonazione, insomma, sono animali che hanno un certo valore. So che ci sono anche dei registri per i cavalli da corsa clonati. Sì, tenga presente che fa clonazione di cavalli siamo noi e una società in Texas, per cui... E potenzialmente oggi nel mondo dove è giustificato clonare, quindi dove poi l'animale prodotto in realtà giustifica le spese che vengono fatte, possiamo parlare di 4-5 cavalli, per cui interessante fin tanto che non abbiamo una grossa concorrenza e i numeri sono se i numeri sono limitati a questi che ho detto, chiaramente può essere un campo interessante, ma veramente veramente di nicchia. Ci chiedono se un suo cavallo ha mai vinto. Ma a parte che il cavallo più anziano l'abbiamo fatto noi ed è Prometea e da 6 anni. Per cui non è un cavallo da competizione perché era un cavallo qualunque, tra virgolette. Senso, quindi non era competitivo, certo, insomma. Certo. E comunque l'idea. A parte il fatto dell'accettare queste nuove tecnologie, quindi non sono solo i governanti, i politici, l'opinione pubblica, ma sono anche l'industria che è scettica, perché qualunque cosa che comporti un cambiamento dello status quo rende tutto. Ma infatti sull'aspetto, diciamo, etico dell'operazione ci torniamo nella seconda parte della trasmissione. Io volevo fare una domanda rapidissima, anche perché ci sono un po' di sms. È possibile clonare un animale che non è mai esistito? Qua è lo scenario Jurassic Park, i mammut piuttosto che la tigre dal dente a sciabola. Teoria sì, in pratica c'è ancora parecchio da fare, perché a malapena riusciamo a clonare degli animali viventi, perché di fatto, come dicevo prima, i costi sono ancora elevati perché la tecnologia è ancora imperfetta. Il fatto di utilizzare delle cellule di anni o di secoli prima, in teoria lì c'è tutta l'informazione, però probabilmente non è ancora utilizzabile. Più in là ci sono arrivati dei giapponesi utilizzando delle carcasse le cellule prelevate dalle carcasse di topolini da laboratorio congelati nel freezer per un po' di anni. Quindi in teoria sarebbe possibile, in pratica bisogna... In pratica tutto da vedere. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, Guido Romeo in studio. Stiamo parlando di clonazione. Sono arrivati moltissimi sms, alcune proteste sulla sofferenza degli animali, ma Guido, mettiamolo subito in chiaro, cioè un animale clonato non è un animale che va al macello, perché costa troppo. Galli mi sembra l'abbia detto molto chiaramente, sono animali in qualche modo privilegiati perché sono talmente costosi e interessanti per proprio il loro genoma che non vengono macellati, né, mi aspetto che soffrano più sicuramente soffrono meno di un animale che è all'interno di un macello. Anzi, hanno una vita più lunga e non devono neanche fare il latte, insomma. Certo. Noi siamo in collegamento con Carlo Alberto Reti e Cesare Galli, un SMS: se l'industria lo richiede, l'industria nel senso la grande macchina industriale, si potrà avere un maiale con 4 prosciutti? Galli. Ma qui andiamo un po' all'estremo, nel senso che tutto è possibile, possiamo anche andare su un'altra galassia, il problema è di trovare la tecnologia per poterlo fare, anche se obiettivamente non mi sembrano, è un po' un'esasperazione che alla fine poi danneggia un po' anche il lavoro che stiamo facendo, dove non servono 4 prosciutti perché di maiali ne abbiamo a sufficienza, però magari servono i maiali che hanno delle caratteristiche genetiche e utilizzabili come donatori d'organo piuttosto che come modelli animali per malattie umane. Quindi diciamo che la tecnologia, al di là del produrre i... Non ha questi obiettivi. Non ha questi obiettivi. Può avere degli obiettivi selettivi comunque, perché io posso far riprodurre gli animali migliori, quindi accetto quello che già viene fatto oggi selezionando con le tecniche classiche. Quindi... Ecco, noi abbiamo in collegamento anche Giovanni Boniolo, filosofo della scienza, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sentiamo una brevissima scheda redatta da Guido Romeo. Si definisce un filosofo da laboratorio perché nel suo curriculum convivono una laurea in fisica e una in filosofia, circa 130 saggi su epistemologia ed etica, ma anche studi di biologia molecolare ed esperienza tra cellule e provette. Oggi filosofo presso l'Università di Milano e l'IFOM, l'Istituto FIRC di Oncologia Molecolare, Giovanni Boniolo indaga i concetti alla base delle scienze della vita, come l'individualità biologica e le loro implicazioni per la medicina moderna. La sfida, per lui che si occupa di filosofia della conoscenza ed etica applicata, è mettere a punto nuovi strumenti e processi decisionali condivisi. Il mondo della tecnica nel quale viviamo non ha solo bisogno di nuove scoperte, ma deve anche saper decidere collettivamente sulle opportunità e sui problemi aperti dalla ricerca scientifica. Boniolo, ho subito una domanda, ma chi decide su queste nuove tecnologie? Per esempio, chi decide su cosa si deve clonare o se ci dovesse essere un nuovo tipo di clonazione? Beh, dunque la risposta è semplice e nel contempo complessa. Semplice, se guardiamo la realtà, praticamente decide il Parlamento e decidono i legislatori. E un pochettino più complessa se invece guardiamo l'iter ideale, dove a decidere dovrebbero essere i cittadini attraverso un dibattito di etica pubblica ben fatto. Questo poi dovrebbe essere recepito dai rappresentanti, cioè da coloro che noi mandiamo in Parlamento e che paghiamo, i quali poi dovrebbero legiferare secondo quanto l'opinione pubblica, anzi il pubblico, ha deciso. Quindi, ma per esempio in Inghilterra una cosa del genere mi risulta che poco tempo fa sia stata fatta anche in maniera molto, molto trasparente, parlo degli embrioni chimera. Assolutamente sì, ciò che sembra impossibile in Italia, ciò che sembra una situazione quasi ideale per la situazione italiana, invece è qualcosa di estremamente reale ed estremamente anche fattibile in paesi diversi. Per esempio, proprio in Inghilterra, nel settembre 2007, la British Human Embryology and Fertilization Authority ha deciso di dare il via alle ricerche sui cibridi. E dopo che è stata fatta una consultazione popolare dove un gruppo di cittadini è stato incaricato di decidere, dopo aver avuto conoscenza della situazione scientifica. Ci spiega che cos'è un cibrido, perché già oggi li abbiamo già sovraccaricati con parole difficili i nostri ascoltatori. Dunque, il cibrido è innanzitutto non è, come è apparso in molti giornali italiani, né una chimera né un ibrido. È un'entità biologica nuova realizzata prendendo il nucleo da una cellula umana e il resto della componente cellulare da un animale. Ed è stato messa a punto questa entità per poter poi avere cellule staminali embrionali che però sono umane. praticamente una nuova entità biotecnologica. Ecco, qua Giuseppe da Milano si domanda se non è un impoverimento della diversità genomica, cioè se non diamo incontro a ibridi che poi non impoveriscono il patrimonio. Non vedo alcun nesso tra ricerche di questo genere e l'impoverimento della biodiversità, anzi da un certo punto di vista creiamo della nuova biodiversità, infatti. Penso che non vi sia alcun problema da questo punto di vista. Ecco, ma non giriamoci intorno, passiamo dagli animali a un altro tipo di animali che è quello, cioè, parliamo dell'uomo, ecco, del cucciolo dell'uomo. Chiaramente qui l'immagine che si accompagna nelle pagine dei giornali ma anche nell'immaginario fantascientifico è quello della fabbrica di organi, no? Dove ognuno si crea una sorta di clone per poi avere degli organi di ricambio. Certo, stiamo parlando di un fantascienza, stiamo parlando di qualcuno ci sta pensando e soprattutto dove ci stanno pensando? Beh, già ci sono delle realizzazioni, non di organi nella loro completezza, ma di certi tessuti che poi vengono usati, ad esempio per quanto riguarda la pelle per gli ustionati, eccetera, eccetera. Per realizzare un organo nella sua interezza tridimensionale la cosa è molto più complessa e siamo ancora al di là di venire, però è una via che dovrebbe e potrebbe essere percorsa, dipende soltanto anche, non solo, ma dipende anche dalle capacità finanziarie che la ricerca ha di poter esistere e quindi dipende anche dal pubblico che voglia questo tipo di ricerche. Mi dica Cesare Galli. No, quando si fanno queste ipotesi di crearsi il proprio clone per poterlo utilizzare come donatore d'organi, in realtà è una questione sulla carta, perché non è che noi facciamo una fotocopia, non è come fare una fotocopia. Se oggi commissiono, parlando per assurdo, un clone, un mio clone, prima che abbia il fegato delle mie dimensioni io sono già defunto, per cui... è un discorso che lascia il tempo che trova. Ok, questo era bene sottolinearlo, nel senso che poi di fatto restano poi più determinate immagini che poi i dati di fatto. Un clone cresce come un altro animale, per cui a 9 mesi di gravidanza, se parliamo del bovino, poi quando è neonato chiaramente ha le dimensioni diverse dall'adulto, per cui per crescere fino alla dimensione da adulto ci vuole del tempo, per cui... Certo. Diciamo che uno se lo deve fare quando è nato il clone, se vuole averlo per poter... Ecco, proprio su questo tema io volevo chiedere anche a Carlo Alberto Redi se abbiamo visto che ci sono regole diverse, ma se ci sono posti che secondo lui, secondo nazioni o continenti dove si è un po' più permissivi, dove ci sono regole un po' più lasche. Ma sulla riproduzione umana direi di no, è la galera in qualunque paese sul pianeta Terra, al di là del fatto che qualche sconsiderato avventuriero raeliano di turno ha dichiarato ogni tanto di aver clonato l'uomo, ma direi che le parole del professore Galli sono chiarissime, ma anche sui cibridi andrebbe fatta chiarezza. Il cibrido non ha alcuna possibilità di svilupparsi al di là delle prime moltiplicazioni cellulari in provetta. Quello che ha detto prima anche Galli, cioè gli animali estinti, siamo riusciti giusto con la capra pirenaica che si è estinta nel 2000 e buonanotte, ce l'abbiamo fatta. Mi chiedo perdona, cos'è la capra pirenaica? Questo non la conoscevo. È l'unico animale estinto, la capra pirenaica, che è stato clonato, si è estinta nel 2000. Però voglio dire, bisognerebbe, quando anche gli ascoltatori ci chiamano, riuscire a far chiarezza immediatamente su quello che purtroppo i media hanno già seminato di fantasie. Se si parla di cibridi, è bene dire subito che il cibrido non si sviluppa laddove è anche permesso farlo. Ci sono stati 3 permessi in 25 anni di dibattito, e cioè il Regno Unito. Cioè non è che vai nel Regno Unito e cloni, fai cibridi, perché gli ascoltatori purtroppo sono vittime di questi avventurieri di cui parlavamo prima, per rispondere. Sì, perché tra l'altro, cioè, è vero che ogni tanto qualcuno salta fuori da qualche centro di ricerca sperduto, io ho clonato questo e quello. Io dico che ho visto l'asino con le ali che vola, devo dare le prove, queste persone non hanno mai dato le prove, non hanno mai pubblicato un lavoro, insomma ci sono delle procedure che vanno rispettate. Purtroppo viviamo in un paese dove i media fanno delle opere nefaste. No, ma non diamo tutta colpa ai media, noi su Nova siamo bravi, sul Sole 24 Ore. No? cioè per quanto noi si tenti, giornali, radio, televisioni, telegiornali parlano del cibrido senza sapere di che cos'è, e la gente crede che davvero si possa fare. La prima cosa da dire è: il cibrido non riesce, neanche se io avessi il permesso di farlo. Una domanda. Una città di mucca con il nucleo umano non si sviluppa se non in provetta, moltiplicandosi 3 o 4 volte. Punto a capo. Parliamo di cose reali che possono creare un'etica concreta della responsabilità, gli embrioni che ci sono, cioè queste cose sono centrali nel discorso clonazione. I 4 prosciutti non c'entrano niente con la clonazione, è importante dirlo. Va bene, grazie professore, io ringrazio Cesare Galli, Alberto Reti e Giovanni Boniolo. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Sondaggio shock su Facebook. Obama deve essere ucciso? No, sì, forse. Sì, se riduce la mia copertura sanitaria. Il Secret Service americano è a caccia dell'autore dell'indagine apparsa sul social network nei giorni scorsi. I gestori del sito hanno subito rimosso la pagina incriminata, disattivando il servizio impiegato per crearla, onde evitare altre iniziative del genere. Dopo il cinema, la TV 3D diventerà una realtà. Panasonic ha presentato un televisore tridimensionale al plasma da 50 pollici, con cui sembra quasi di poter toccare le immagini. Il marchio giapponese non ha precisato né il prezzo né la data di lancio dell'apparecchio, che dovrebbe però arrivare nei negozi nel corso del 2010. Osservare come cresce un tumore grazie alla matematica. Un gruppo di ricercatori della Dundee University sta elaborando un modello virtuale di sviluppo delle cellule tumorali che mira a predirne velocità e modalità di diffusione. Il progetto, finanziato dallo European Research Council, dovrebbe aiutare i medici nelle procedure di diagnosi del cancro. Chissà cosa combina una cellula staminale nello spazio. Alla South Wales University in Australia hanno provato a capirlo, mettendo alcune staminali in un ambiente a microgravità, osservando che esse producono proteine diverse da quelle usuali. La scoperta potrebbe spiegare alcune patologie degli astronauti, come perdita di densità ossea o atrofia muscolare. Un brindisi alle bollicine. Sono proprio loro, infatti, secondo una ricerca pubblicata sulla rivista della National Academy of Science, a recapitare al naso e alla lingua gli aromi dello champagne. Impiegando una tecnica di analisi spettrometrica, un gruppo di ricercatori, ovviamente francesi, ha scoperto che le bollicine contengono molte delle molecole che formano i profumi del vino spumante francese. Ma tu la capra pirenaica la conosci, di la verità. Adesso tu mi dici dove vive l'habitat della capra pirenaica. Saranno i Pirenei, però sì, ma quale regione delle Pirenei? No, perché, vabbè, perché poi faccio sempre la parte di quello che deve fare le domande. Tu no, perché la tutto. Capra cirenaica c'è, ma è un'altra cosa. Ah sì, anche sai anche la capra cirenaica, no? Certo, vive nel Peloponneso e ben altro. No, ma continua così a far quello che sa tutto. Adesso trovo una domanda sugli SMS che ti inchioda. Vediamo un po'. Ah, l'animale clonato nasce sterile? Beh, l'abbiamo già, beh, abbiamo no, già ma risposto. Questa è facile, abbiamo già risposto Galli, sì, li clonano per farli, per creare seme e quindi riprodurli. Insomma. Sì, insomma, speriamo di aver dato tutte le risposte del caso da questo punto di vista. E se ci sono altre risposte, l'appuntamento, chi diamo di andare a vedere su Novalab 24, anzi, su, più che su Novalab 24, sul Twitter di Novalab 24, che è twitter.com/Novalab24, tutti gli indirizzi che metteremo sul tema della clonazione. Poi credo che si continuerà ancora a scrivere su Nova di questo tema, sbaglio? Beh, è una cosa che va avanti, è sempre molto interessante. Galli l'ha detto, siamo noi qui in Italia, in Texas. Ah no, qua mi chiedono anche come si chiama la femmina del cibrido. Hai pochi secondi. Non ha sesso, è il cibrido e basta, è come dire, è un neutro. È la cibrida, è la, la femmina, no, che la vedi che non ci sei, era ma sottile. No, è un clone, è un clone. Lo sapevo, comunque la femmina del è cibrido. Assessuato. Vabbè, comunque si chiama cibrida, ci mettiamo d'accordo io e te, poi ne parliamo con gli ma scienziati. Ma un cibrido e una cibrida, cibridano. Arrivederci, ci sentiamo domani alle 4. Nova Lab 24.